America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. La borsa, la chiusura di New York, perché ieri abbiamo avuto una seduta stabile rispetto agli aumenti del giorno prima, aumenti record per il 2011, dunque qualche realizzo di profitto, appena una diminuzione, meno 0,12% per il Dow Jones, meno 0,43% per il Nasdaq, meno 0,07% per l'S&P 500, S&P 500, quindi tecnologici che avevano fatto molto bene, insomma qualche realizzo sul Nasdaq, nulla di preoccupante, un semplice movimento tecnico. Fra le altre notizie interessanti sul mercato, soprattutto nel contesto dei media, Rupert Murdoch è rientrato in America dopo l'audizione in Parlamento a Londra, è rientrato a occuparsi dei problemi del suo impero qui a New York, perché poi alla fine il grosso è qui, deve evitare il contagio, ha un gruppetto pronto a intervenire nel caso le cose dovessero complicarsi ulteriormente anche qui. Comunque c'è stato, devo dire, un balzo d'immagine, soprattutto con quella straordinaria scena, quel balzo felino della moglie Wendy che si è buttata al volo contro l'aggressore che gli voleva buttare la schiuma da barba in faccia e che un po' c'è riuscito con questo gancio che ha tirato contro l'aggressore. Bene, questa notizia da sola è bastata per far salire le quotazioni della coppia Wendy Rupert, una coppia molto affiatata, questo lo sapevano pochi intimi, ora credo lo sappiano tutti, perché nonostante la differenza di età, 80 anni lui, 42 anni lei, si sono sposati 10 anni fa, hanno due figliolette, beh, qualcuno può pensare così al tipico interesse per il miliardario da parte da una donna giovane, esotica, ricordiamolo, la Wendy è cinese, ma in realtà c'è un legame molto forte fra loro, perché quella stessa aggressività che abbiamo visto in Wendy ce l'ha anche Rupert, quindi i due vengono da storie difficili, sono cresciuti facendosi avanti nel mondo, si sono ritrovati e quindi credo che quella scena sul piano simbolico sicuramente abbia aiutato l'immagine di Murdoch, soprattutto tutto qui in America. Molti in partenza, molti negli aeroporti, aeroporti affollati, aeroporti con questi aerei, alcuni, diciamolo, non esattamente così all'avanguardia dal punto di vista della qualità, un po' vecchiotti. Perché? Beh, perché le linee aeree hanno sofferto moltissimo, il costo del petrolio che è aumentato è rimbalzato sul costo del carburante, quindi il costo del biglietto è aumentato, c'è stata così una ripercussione a catena di questa crisi dell'offerta sul mercato petrolifero. Le linee aeree sono molto più in concorrenza fra loro, diciamo che quelli che erano i servizi che si trovavano una volta si trovano molto meno. A me capita spesso di viaggiare per esempio fra New York e Washington, una volta facevano un piccolo rinfresco, ora non lo fanno neanche, se si vola nelle linee aeree scontate ti fanno pagare $5 per poter prendere una Coca-Cola. E dunque qual è l'atmosfera? L'atmosfera è di austerity e di ristrettezza, come dappertutto. E dunque in questa atmosfera di linee aeree che fanno fatica, di turisti che devono accontentarsi magari così di una poltroncina un po' sdrucita, non esattamente pulitissima come ci si aspetterebbe, ieri che cosa è successo? Una notizia bomba. L'American Airlines ha fatto l'ordine di aerei più importante della storia. State a sentire, 460 aerei nuovi ordinati, più opzioni forse per altri 400 aerei, complessivamente un impegno finanziario da oltre 40 miliardi di dollari, nuovi posti di lavoro promessi alla Boeing, alla Airbus europea, perché l'American Airlines poi ha suddiviso questi acquisti. E dunque di questo vorrei parlare più a fondo, perché il settore credo interessi tutti noi, con Marco Valsania. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Marco, voglio dire, lo conoscerete per firma sul Sole 24 Ore, ma Marco è un veterano degli Stati Uniti, è stato qui tantissimi anni, abbiamo lavorato insieme, adesso è qui per un periodo estivo, si occupa di finanza internazionale a questo punto a Milano, ma ha seguito, credo, con una certa passione questa storia, perché poi un record è sempre un record. Allora Marco, dacci qualche dettaglio su questa storia degli ordini. Come mai l'American Airlines si è decisa e ha fatto questo acquisto così importante all'improvviso? Ma sì, è un acquisto che non si è sentita più di rimandare proprio per le ragioni che citavi tu, cioè aerei che invecchiavano anche troppo, e comunque nonostante le difficoltà economiche del settore, una concorrenza che è sempre più intensa, che richiede ai sopravvissuti tra le grandi linee aeree globali di rilanciarsi, insomma, in qualche modo di rafforzarsi. Ecco, American Airlines ha una delle flotte aeree più vecchie degli Stati Uniti, che ha in media 15 anni di età, alla pari praticamente con la Delta, quindi diciamo la necessità di svecchiarsi era necessaria a questo punto. Ecco, come sono stati divisi questi ordini? Perché un po' sono andati alla Boeing e un po' sono andati all'Airbus. Sì, questo è uno degli aspetti più interessanti, perché l'American Airlines praticamente aveva un contratto quasi in esclusiva con la Boeing finora, negli ultimi 20 anni. Erano 20 anni che non comprava un aereo Airbus. Quindi questa volta, ecco, Airbus può in realtà cantare vittoria, perché American Airlines ha ordinato più Airbus che non Boeing. Ha ordinato 260 Airbus e 200 Boeing, quindi diciamo una scelta che così riequilibria i rapporti tra le due società, e anzi rappresenta sicuramente una vittoria per Airbus. E come mai un'azienda americana che ha come bandiera e come nome proprio American compra più Airbus che Boeing? Ma sicuramente questo può essere un segno di quanto sia comunque aperto e concorrenziale il mercato americano, dove comunque alla fine tendono a vincere le offerte più convenienti. In questo caso Airbus aveva preso l'offensiva ed era riuscita a offrire condizioni migliori, una struttura di deal migliore che non la Boeing. La Boeing ha arrancato un po' alle spalle di Airbus. Airbus aveva proposto una versione nuova dell'A320 con dei motori più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante. Boeing puntava a offrire un intero nuovo velivolo all'American Airlines, che invece ha preferito un'opzione che comunque era più conveniente. A questo punto Boeing ha cambiato rotta, se così vogliamo dire, e a sua volta ha offerto una versione così rivista del suo 737, che a sua volta in parte monterà dei motori più efficienti, avranno un'efficienza almeno del 15% migliore rispetto alle attuali tecnologie, e in particolare per alcuni aerei dell'American Airlines hanno un consumo terribile. L'American Airlines ha ancora un terzo della sua flotta in MD-80 di produzione Boeing, McDonnell Douglas, poi realizzati dalla Boeing, che consuma il 45% in più addirittura dei motori nuovi che adesso in futuro entreranno in servizio. Ecco, io mi ricordo che alla fine degli anni 90 c'erano degli studi, delle sperimentazioni fatte dalla Boeing soprattutto per avere degli aerei super veloci, cioè degli aerei che decollavano, entravano nell'orbita spaziale e poi atterravano, partendo per esempio da New York per arrivare a Tokyo, nel giro di 2 ore, nel giro di 1 ora e mezza. Il sogno di poter andare da New York a Sydney in 3 ore invece che in 22 è realizzabile secondo te o no? Al momento sembra più un miraggio che un sogno, almeno a livello delle compagnie aeree, delle grandi compagnie aeree, delle società commerciali. Se qualche privato, qualche grande, diciamo, magnate vorrà impegnarsi su questo fronte, tecnologicamente, come tu ricordavi, probabilmente è possibile e quindi sarebbe fattibile. Al momento però le grandi compagnie aeree commerciali sembrano puntare, quando si parla di innovazione, soprattutto appunto di maggiore efficienza, di permettere spostamenti via aerea contenendo i costi. Ecco, forse il clima generale di maggiore austerity che si è un po' imposto in questi anni ha un po' tarpato le ali a questi sogni che pure appaiono così a portata di mano dal punto di vista tecnologico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. L'11 ottobre esce il nuovo album di Future Islands con il titolo On the Water. Ascoltiamo in anteprima il nuovo single dei Future Islands, Before the Bridge. I'll take the books you stole and leave.